Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Per la sua posizione geografica e con i suoi 8.000 km di coste circa, l'Italia è da sempre un'importante piattaforma nel centro del Mar Mediterraneo, che collega Sud e Nord Europa, Occidente e Vicino Oriente. Proprio per questa collocazione, l'economia italiana ha un'innata vocazione marittima. Nel 2014 sono arrivate nei nostri scali, ad esempio, più di 460 milioni di tonnellate di merci e più di 43 milioni di passeggeri. Le infrastrutture portuali rappresentano perciò un innegabile motore di crescita. Basti pensare che, secondo l'Istat, il 74% delle merci importate ed esportate dall'UE transitano per i porti. Gli scali italiani, però, sono anche un approdo privilegiato all'immenso patrimonio culturale nazionale. Sempre secondo i dati Istat, l'Italia nel 2012 è stato il primo paese europeo per trasporto passeggeri via nave. Turismo o trasporto merci? Quale sarà quindi il futuro della portualità italiana? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato dalla scheda iniziale, i porti italiani rappresentano un'opportunità davvero importante in un momento particolare in cui c'è una riforma della portualità che sta prendendo piede, che si sta delineando in tutti i suoi aspetti. C'è da risolvere un tema che credo sia centrale. I porti dovranno essere al servizio dei passeggeri o delle merci? Cerchiamo di rispondere a questa domanda in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, Andrea Annunziata, già sottosegretario ai trasporti, oggi presidente dell'autorità portuale di Salerno. Un porto, Annunziata, che è cresciuto tantissimo in questi anni e che in qualche modo ha saputo anche coniugare queste due esigenze. Possiamo fare tutte e due. E non parlo solo quindi della Campania, dove tutti i porti della Campania, e non solo Salerno e Napoli, ma Castellammare, Torre e gli altri porti, possono crescere insieme tutti quanti, e così nelle altre regioni. Per cui le potenzialità sono enormi, possiamo essere per davvero un volano per lo sviluppo non solo del sud ma dell'Italia intera, e direi potremmo dare una mano all'Europa. Fermo restando che, così come ha fatto il ministro Delrio, semplificando la vita a noi dei porti, semplifichino la vita al cittadino in genere. A proposito di questa dicotomia fra passeggeri e merci, possono coesistere all'interno di uno stesso porto, come ad esempio è successo con Salerno? Ma assolutamente sì, perché poi quando parliamo di passeggeri pensiamo al turismo, che è una parte importantissima della nostra nazione. È assolutamente importante fare tutte e due le cose, è evidente, non possiamo far mancare le merci alla nazione, né tantomeno non possiamo non esportare e rinunciare e avere il turismo. Quindi insieme, ecco, poi questa è un'altra questione che è positiva della regia che ha voluto dare il ministro Delrio. Capire pure bene laddove si può crescere tutti insieme, bene, o se no magari cominciare a vedere quale porto può avere un certo tipo di merce, fermo restando, come sempre, che la legge è unica sola, quella del mercato. È il mercato che sceglie l'infrastruttura dei trasporti più agile, più veloce. La riforma dei porti contiene anche un piano per la logistica. Si prevedono, ad esempio, collegamenti forti tra porti, interporti, ferrovia. Ecco, quanto c'è da lavorare in Italia su questo tema? Ma ne discutiamo da anni ed è evidente che siamo un po' indietro rispetto al resto d'Europa, però, come dire, la riforma va in questa direzione, perché noi parliamo della riforma dei porti, ma in realtà la riforma riguarda la logistica nel suo insieme con le quattro modalità del trasporto. C'è da fare tanto, però lo possiamo fare velocemente a patto che si semplifichino le procedure e le risorse siano indirizzate per davvero agli investimenti per l'ultimo miglio. La riforma va in questa direzione, una buona riforma quella del ministro Delrio, che va verso un certo tipo di semplificazione delle attività amministrative, dai dragaggi, dai piani regolatori e tante altre forme che oggi hanno frenato un po' lo sviluppo dei porti. E quando si parla di turismo e di porti c'è un altro settore che bisogna tenere in considerazione, è quello delle crociere, un settore in cui l'Italia ha un ruolo importantissimo. Ne parliamo con Marco Di Gioia, che è il direttore affari istituzionali di CLIA Europa, l'associazione di rappresentanza di questo settore, quello croceristico. La CLIA è la principale associazione di riferimento del settore croceristico, con rappresentanze in varie parti del mondo, Nord America, Brasile, Alaska, Australia, Asia ed Europa naturalmente. E a proposito di Europa, Di Gioia, c'è un dato interessante, 40 miliardi di euro è la cifra che ruota attorno al mondo delle crociere, con circa 350.000 posti di lavoro. Quindi si tratta di un settore sicuramente da non sottovalutare. Assolutamente, siamo molto fieri del nostro contributo all'economia europea. Oltre 6 milioni di passeggeri hanno effettuato una crociera in Europa lo scorso anno. Giova ricordare che dopo i Caraibi l'Europa è la seconda destinazione mondiale per le crociere, anzi, per essere più precisi, il Mediterraneo è la seconda destinazione al mondo, seguito dal Mar Baltico. Ecco, di questi 40 miliardi un terzo arriva in Italia, perché l'Italia, non dobbiamo dimenticarlo, è leader in questo settore. L'Italia è la principale destinazione croceristica a livello mondiale. Oltre 100.000 posti di lavoro vengono generati dal settore croceristico nel paese. L'Italia è anche leader nella cantieristica navale. Il know-how, l'expertise dei cantieri in Italia sono ineguagliati e lo sono stati negli ultimi 50 anni a livello mondiale. Siamo molto fieri di questo. Vorrei ricordare che delle 31 navi in realizzazione in cantiere da qui al 2018, 29 verranno realizzate in Europa, in cantieri europei. Come si prospetta questo 2016 per questo mondo, questo croceristico? Ci sono delle criticità che vorremmo che l'Unione Europea sciogliesse, in particolare la sfida infrastrutturale. In molti porti d'Europa riteniamo che maggiori investimenti possano, anzi debbano essere fatti per consentire alle compagnie di operare meglio e continuare a contribuire all'economia europea. In particolare, per quanto riguarda l'elemento normativo, una maggiore armonizzazione nell'implementazione delle norme europee in tutti i Paesi membri. Ed infine, io ho citato prima 6 milioni di croceristi in Europa. Di questi 6 milioni, meno di un milione provengono da paesi terzi dell'UE, in particolare Russia, Cina, tutti i paesi che non fanno parte dell'Unione. Ecco, riteniamo che una riforma del codice visti, il regolamento comunitario per il rilascio dei visti a cittadini terzi dell'Unione Europea sia la chiave per aumentare i flussi turistici verso l'Europa e mantenerla come numero uno al mondo. Un dato interessante, secondo un recente studio della Commissione Europea, una riforma smart del codice visti potenzialmente può generare ulteriori 6 milioni di turisti, di croceristi nel vecchio continente. Con tutto l'indotto che ovviamente tutto ciò comporta e quindi anche per l'economia italiana. Lei prima parlava dei porti. Tra l'altro voi siete stati fautori, promotori di un vero e proprio tavolo di concertazione sui porti con l'avallo di Bruxelles, che dovrebbe aiutare a risolvere alcune problematiche tipiche di queste infrastrutture. Si tratta di una proposta che la CLIA lo scorso anno ha presentato alla Commissione Europea di creazione di un tavolo permanente di dialogo tra il settore croceristico, i porti e i vari portatori di interesse a livello locale, sia decisori politici a livello locale che soggetti attivi nell'ambito del turismo. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email container@radio24.it. Il nostro appuntamento ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.